finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Eccoci perciò sulle frequenze di Onda Rossa, gli 87.9 della banda romana e laziale. Eccoci tornati. Trasmettiamo sempre con una soluzione remota. E questo significa che di tanto in tanto ci sono gli inconvenienti. Questa notte sembrerebbe che lo streaming sia abbastanza instabile. Ma comunque cercheremo, ci siamo addirittura attrezzati con un eventuale backup. Non sappiamo se funziona, speriamo che tutto vada per il meglio. Non ci sentiamo da un bel po' di puntate, abbiamo fatto, come ricorderete, una trasmissione un po' di tempo fa con Elettrodo al Fantasma per ricordare Claudia dagli studi della radio. Finalmente siamo tornati lì con le attrezzature. Alto valore tecnologico di Radio Onda Rossa, e abbiamo sbagliato anche lì, quindi capite bene che il problema non è di attrezzature. Poi la scorsa settimana abbiamo dato buca, questa settimana speriamo di poter andare in onda. Su questa emittente libera, indipendente, autonoma da 43 anni, dal 1977, e lo fa grazie al fatto che è un'emittente libera che vive del contributo di tutti coloro che fanno i movimenti, le lotte. La lotta di classe. Sì, perché se proprio dobbiamo dividere il mondo, non lo facciamo certo con dei confini, con delle nazioni, con dei colori della pelle, con delle lingue. L'unica divisione dirimente che esiste è quella di chi ha potere e di chi non ce l'ha. Di chi c'ha i capitali, i soldi, e chi non ce l'ha. E le due cose vanno normalmente a braccetto insieme, e questo far comprendere anche le altre divisioni surrettizie che vengono poste. E cioè le cose per cui Radio Onda Rossa è antifascista, antisessista, antirazzista. Bene, per continuare a far sì che questa emittente continui a trasmettere, 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo, ed è questo anche l'indirizzo della radio dove potete venire a visitare gli studi e a portare il vostro contributo direttamente. Continuiamo a mandare lo spot della scarceranda, ma come è ben segnalato sul sito e come ripetiamo più volte in diretta, la scarceranda è terminata per quest'anno. ne abbiamo venduto un numero di copie impressionante in brevissimo tempo rispetto a quelle, al numero di agende che ordinavamo, che facciamo stampare negli anni scorsi. Vi è ancora la possibilità di inviare invece le copie in carcere, basta mandare un vostro, una persona che, a cui volete far capitare la scarceranda, fornirci l'indirizzo, il nome, e noi provvederemo a mandarla oltre le sbarre, oltre le mura delle carceri. C'è ancora, credo, magari informatevi prima, ma credo ci sia ancora il calendario di Radio Onda Rossa, quello inciso, graffiato da Zero Calcare. Vabbè, ci stiamo attrezzando, per ora partiamo così, vediamo il sito della radio www.ondarossa.info. Sì, lo dimenticavamo, il numero di telefono 0649 1750, la mail ondarossa@ondarossa.info, la mail è sottoscritto 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info. Iniziamo così e poi vi diciamo. Allora, dicevamo, vi abbiamo lasciato con Erode, Auffiedersen, e adesso Terre di Nessuno. Perché in questi giorni di febbraio, non abbiamo trasmesso appunto la scorsa settimana. Così raccontiamo un pezzo della nostra storia, solitamente una puntata che facciamo con degli ospiti, forse ci sentiamo noi un po' ospiti di costoro e alle volte anche con degli ospiti. Questa che ascoltate è una trasmissione che ha preso le mosse nel 2002 sulle ceneri, diciamo, di un'altra storica trasmissione di Radio Onda Rossa con la S minuscola, ovviamente. Una trasmissione che si chiamava Next Time e che andava in onda dalla prima metà degli anni 80 fino appunto al 2002, un bel po' di anni. 26 anni probabilmente. No, scusate, 16 anni. 16-17 anni di Next Time e quest'altro anno 20 anni di 25 O'Clock, è veramente una vita. La persona che ideò Next Time era, per chi non ha avuto modo di conoscerlo, di conoscere questa storia, ormai appunto sono passati 19 anni, era un giovanotto chiamato Patata Roberto, e il nome Patata era perché appunto aveva una corporatura che a tutti gli effetti aveva le sembianze di una patata, o così almeno nella presa in giro della periferia romana, ma non era, insomma, tanto, era meglio non prenderlo in giro, diciamo, Roberto. Se la prendeva bene andava bene, se la prendeva male, insomma, era uno schiaffone. Roberto morì a 39 anni, lasciando un vuoto che ancora abbiamo difficoltà a colmare. Ormai sono passati tanti anni, a lui dedichiamo ogni anno una parte di 25 O'Clock, quella appunto di metà febbraio. Quest'anno, per via delle note faccende che conoscete riguardanti il Covid e gli impicci relativi, le trasmissioni fatte da remoto, insomma, non è stato semplice. Vedremo magari nelle prossime puntate di riuscire a organizzare qualcosa, anche tecnicamente non sappiamo se saremo in grado, comunque, insomma, non promettiamo nulla, comunque vediamo se riusciremo in qualche maniera, almeno telefonicamente o in qualche maniera attraverso la rete, avere gli ospiti che merita. E ritornando ai suoni di quegli anni, questo era il 2001, Roberto fece anche, creò qualche anno dopo di Next Time, negli anni 90, creò un'altra trasmissione della radio che si chiamava Lo Scader di Un'ora, tanto per capire quanto fosse difficile poi comprendere appieno. Quanta varietà e quanta cultura, diciamo, in termini musicali. Come sono cresciuto, che la mia schiena è dritta, come so dare la mano e come guardo lontano. Di quanta cultura fosse padrone e avesse dimestichezza. E quindi dopo la nuova e vecchia psichedelia di Next Time, così si diceva all'epoca, allo scherzo. di un'ora invece appunto trattava di cui valle, quindi da capo senza sicura fiori d'inverno da capo. Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli. Dai! Ascolta bene! Il caldo nulla che sostiene l'estate di periferia,

spiego meglio. Molte volte così, molto lo-fi, altre volte invece come in questo prodotto di Senza Sicura, che doveva essere, credo, il loro secondo album, ma poi praticamente scomparvero Senza Sicura. Si sciolsero per dissidi interni. Fatto sta che questa roba andava spesso e spesso e volentieri durante allo scadere di un'ora. Chissà se allo scadere di un'ora fosse continuato, lo ha fatto per un po' di tempo, proseguito dai vecchi compagni giovani. I vecchi compagni giovani, sì, perché era una trasmissione che in realtà raccoglieva il sabato mattina proprio un sacco di ragazzetti. Abbiamo sentito qualche, proprio l'altro, due mercoledì fa, Pipino, che di quella redazione faceva parte, che ci ha chiamato da Parigi. Vabbè, forse, probabilmente, se ci fosse stato alla scadere di un'ora, avrebbe anche trasmesso Pat. Onestamente siamo rimasti veramente, pensiamo che la perla che abbia prodotto è quella con Nicoladino Goddam, sia dal punto di vista proprio della produzione, sia di come è suonato splendidamente questo lavoro di un paio d'anni fa. Io la piccola storia del mondo ve la faccio risentire da capo. Pat e Nicoladino Goddam, eccole qua. Ve lo rifaccio sentire un'altra volta ancora, perché vi dovevo annunciare che dopo invece c'è un po'. Cambiamo argomento, diciamo. La vita è questa, ma c'è una. Sì, perché c'è Velester che produce a bestia, anzi avrebbe voluto produrre quest'oggi ancora un'altra roba. Poi non ce l'ha fatta, però avevamo del materiale che c'era già pervenuto. Ci lavoreremo sopra. Non ha un titolo preciso, credo, questa roba qua, se non o almeno noi l'abbiamo chiamata 18-19 minuti in realtà. Quindi 19 minuti di Velester da capo Pat un'altra volta e poi basta. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale 06491750. Recapito telefonico da capo. Fratello, apri gli occhi, non capire male. Sì, la vita è questa, ma c'è una bellezza da rivalutare. Il principe era l'animale a fare a pezzi il mondo con un acciaro rudimentale. L'alba dell'era brutale, riportata ad oggi è legge capitale. Mi spiego meglio, la giungla non ha senso dove c'è progresso. Hai tre telefonini e non conosci te stesso. E solchi il tuo quartiere tutte le sere senza sapere. Dici che me importa, ma le scarpe che porti sono macchiate di sangue umano. Perché qualcosa torna sempre indietro. Pensaci prima di chiamare qualcuno negro. Che se sta barca affonda, fesso bianco sarà il negro di qualcun altro. Io sono nato tra gli operai. Fratello, ho visto cose immaginate mai, ma non per questo brucio libri e fetici esorcizzando storie in picce qua. Come un

Sono attento a cosa mi circonda e a chi è nelle mie vicinanze. Sono attento a cosa mi circonda e a chi è nelle mie vicinanze. Stabile, calmo, ho dormito bene, nessun incubo, sono attivo e impegnato, sono attento a cosa mi circonda e a chi è nelle mie vicinanze, sono vigile, sono concentrato sull'essenziale a discapito di tutto il resto, sono incerto sul futuro, ma non mi preoccupo. Mi affiderò agli affetti più cari e condividerò i loro fardelli come loro i miei. Io vivrò e amerò in ultra. Non più nessuna importanza né alle scintillanti fontane che la gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità dove posso essere solo sì. Io sono discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso lunga, infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarla durare attraverso i secoli. Rimeditando ogni giorno le stesse futili. Riesce a immaginarla durare attraverso i secoli. immaginarla durare attraverso i secoli. Morte, riesci a immaginarla durare attraverso i secoli. Morte, riesci. Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che la gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo con i miei pensieri. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Dove i miei pensieri, io adoro solo l'oscurità e le ombre. Per essere solo, dove posso essere solo, ci sono cose molto più orribili. Riesci a immaginarci? Ci sono cose molto più orribili. Riesci a immaginarci? Durare attraverso. Riesci a immaginarci, durare attraverso, riesci a essere molto più orribile, ci sono cose molto più orribili, ci sono cose molto più orribili, riesci a essere molto più orribile, riesci a essere molto più orribile, riesci a essere molto più orribile. È la nostra cosa. Abbiamo tutta la testa. E ogni giorno che ci rimane deve essere la stessa. È la nostra ultima cena. Il giorno che ci rimane deve essere una festa. Abbiamo tutta la testa, è la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa, e ogni giorno che ci rimane deve, è la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa, e ogni giorno che ci rimane deve essere una festa, è la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa, e ogni giorno è la nostra ultima cena. Abbiamo tutta, è la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa, è la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa, e ogni giorno che ci rimane deve essere la stessa. È la nostra ultima cena. Abbiamo tutta la testa. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. È la nostra ultima cena. Abbiamo ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. E ogni giorno che ci rimane. Deve essere la stessa. Non ha fatto nessuna copertina. apocalittica prevedibile. La mia opera non è un saggio contro la prima causa mentale che ha come struttura portante l'uomo con la sua ragione, con i suoi sentimenti, con la morale della ho inteso solo dire che la cultura e la scienza non conducono affatto alla scoperta dell'uomo e alla verità sulla sua natura e sulla sua la cultura, la scienza, ci permettono solo di analizzare la situazione della società, economica, politica. Tanto è vero che questa nostra età della scienza, nel rapporto morale e politico, è la collina che vede la scienza. Ho inteso solo dire che la cultura è la cura. I 18 minuti di Velester, quindi. Di cui abbiamo perso purtroppo, come dicevamo, i collegamenti sono abbastanza precari questa notte, però. Spero che abbiate resistito e siate rimasti all'ascolto. In qualche maniera siamo riusciti a recuperare questa, invece è un altro lavoro splendido che ci è stato così prestato dal buon Elettro di Prove Tecniche di Trasmissione. Stiamo parlando di Hollow Bone. E lo splendido post-core. Questa è 00 Parts. Thank you. Olobon ancora. Zero Zero Part, purtroppo il collegamento è cagionevole. E si interrompe il flusso informativo sotto forma di suggestione. Onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza, noi ci proviamo ancora. Cielo, sulla traccia sempre il cuore che comanda, la mia banda supporta scarceranda. Sei qua chi me lo manda, chi di voce ormai è priva. Io per primo ti rimbombo la mia in testa come un grido. E no, fra che non ride in questa viva, contro il carcere ogni giorno, perché non ci si muoia né ci si viva. Ah, fuori dal centro, per scarceranda. Proviamo ancora, speriamo di mandare una traccia per intero. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, 25 o'clock da remoto. Questo è Cardiac Atlas, Juno 44, lavoro del 2020. Just above your right breast, he makes a tiny cut just above your right breast. He checks the tone. It is destination. He climbs in, checks the tone. Thank you. giant sky. Inside your chest, he makes a fire here and warms the giant sky. Inside your chest, e quindi da Cardiac Atlas, Juno 44, passiamo a Black Mountains, anzi senza frullare, Black Mountain, Montagna Nera. Horns Are Rising, uscita del 2019. We'll be right back. E questo è il rock progressivo e manieristico di Black Mountain, provenienti da Vancouver, British Columbia. Probabilmente queste montagne nere sono proprio quelle che incombono dietro la costa canadese pacifica. E quindi da quei luoghi freddi e di natura assolutamente incontaminata e magnifica, dai fiordi con le balene che girano lì davanti, alle montagne, montagne rocciose appunto che dietro in questa stagione sono cariche di soffice neve. Andiamo più a sud, restando sulla costa pacifica, più a sud negli Stati Uniti, a San Francisco per l'esattezza, dove T.I. Segall, Charles Murtratt e Chad Ubovich dal 2013 hanno prodotto tre album, tre dischi. È il terzo disco del 2020 che andiamo ad ascoltare, stiamo parlando ovviamente dei Fuzz. E in questa trasmissione, spesso e volentieri interrotta nei tempi, eppure così dilatata nei suoni, tanto da farci perdere l'orientamento del tempo che passa, 56 minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock, www.ondarossa.info, cliccate su Sostieni, c'è una pagina che vi spiega come mantenere questa emittente attiva e piena di idee. Le idee che possono essere anche le vostre, anzi che sono senz'altro le vostre, in questo dibattito collettivo che la radio tiene aperto. Quindi lasciamo Black Mountain, Fuzz, Time Collapse. Vabbè, abbiamo appurato che, così come l'abbiamo attrezzato, la linea di riserva non parte. Ci attrezzeremo per migliorare ulteriormente. Certo, stasera vi abbiamo veramente, stanotte vi abbiamo veramente fatto soffrire, però ci tenevamo, visto che siamo arrivati a lunedì, la conclusione della trasmissione, non indugiare oltre. E a produrci alla fine di questa tormentata diretta da remoto, ce ne vogliate scusare per l'ascolto, che non è stato senz'altro dei migliori. Certo, diventa veramente complicato sia trasmettere, ma soprattutto ascoltare, nonché il delirio di 25 O'Clock non vi abbia abituato comunque a queste astrosità notturne. Certo, ci dispiace però disturbare questa splendida Firestorm di DJ Shadow, che andrebbe ascoltata tutta ad un fiato, come si suol dire. Vi promettiamo che cercheremo di ricucire tutto in fase di montaggio, poi a posteriori, post produzione, come si suol dire, della diretta, di modo che avremo un podcast un po' meno tagliato, chissà che riusciremo a recuperare qualcosa e magari possiate riascoltare la trasmissione con più calma in streaming, in podcast, anzi, andando a recuperare la registrazione. Confidando quindi nella linea che si mantenga attiva per questa conclusione, conclusione sempre affidata a DJ Shadow, My Lonely Room, mai forse titolo di brano è stato più azzeccato per sottolineare la situazione. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romane laziale, www.ondarossa.info. 25 o'clock ai controlli. La prossima settimana ci attrezzeremo meglio, speriamo. Volevamo fare anche altri esperimenti, come la possibilità di chiamare qualche interlocutore e mandarlo in diretta. C'è il fantasma che freme per trasmettere, lo sappiamo, e ci adopereremo per comunque farlo partecipare in qualche maniera, forse. Lo avremo anche qui con noi, chissà. Con questo a noi non ci resta che andare a concludere, ricordando che le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata, più continua sicuramente di noi altri. Eh sì, le macchine sanno far meglio, questa è l'epoca, questi sono i tempi, anche perché la mostruosità e le mostruosità che gli uomini sanno mettere in atto sono ben peggiori anche di quello che saprebbe fare una deficienza artificiale. Pensiamo infatti al carcere, e questo è il nostro pensiero ultimo e primo quando trasmettiamo da questa emittente. Il nostro saluto più importante va quindi a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, la latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. Il palinsesto riprenderà domani mattina con la rassegna stampa, cittadina, i redazionali della mattinata, tutta scena cinema alle 14, alle 16 Arctica Blues, oltre al Black Music, la schiena del sole alle 17, alle 18 Mezzedes, i redazionali di Radio Onda Rossa, alle 20 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri, e alle 23 della radio, e alle 23 aspettiamo i cuginetti di Apostasia. Bella a tutti e a tutti, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai! tune tonight.